La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci immancabili anche in questo sabato d'agosto, in questo weekend, l'ultimo forse veramente estivo per quanto riguarda la programmazione cinematografica. La Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi. Noi ci siamo sempre perché qualcosa di da dire nel cinema c'è sempre. Non sono tanti, come dicevo, i film che escono questa settimana e non sono neanche particolarmente nobili. Però insomma abbiamo interviste interessanti da farvi sentire. Vi annuncio subito Luca Argentero su tutti i suoi prodotti e progetti della prossima stagione, ma soprattutto un maestro del cinema francese ed europeo come Bertrand Tavernier, e quindi restate con noi fino alla fine. Grande soddisfazione ci ha dato la puntata di Ferragosto, quella tutta dedicata al musical, con tanti di voi che ci hanno scritto alla Rosa Purpurea @radio24.it o sulla nostra pagina Facebook per raccontarci appunto le suggestioni di quella puntata particolare. Ma oggi torniamo un po' più, fra virgolette, nell'ordinario, un po' più nel menu che riguarda soprattutto la programmazione cinematografica in sala. Perché, come dicevo, qualcosina che si muove c'è. A commentarla con noi ci sarà Boris Sollazzo, che in questi anni abbiamo imparato a raggiungere nelle più incredibili località del mondo, ma anche nei luoghi più pazzeschi, ovviamente dalle sale d'aspetto degli aeroporti agli alberghi, e oggi lo troviamo su una montagna della Slovenia. Buongiorno Boris. Buongiorno a tutti, sono qui sopra Gorenja Vas, pensa. Ecco, quando diciamo sulla montagna non è che sei lì a fare il turista in un hotel 5 stelle in montagna, sei proprio arrampicato in una montagna, che mi sembra il luogo ideale per fare una trasmissione di cinema, ecco, anche per recensire un film, magari come Breakdance, tanto per cominciare con il primo film. Se fai la Breakdance lì ti vedo male. Allora stai buono, stai fermo, stai attaccato e noi entriamo nel clima della prima proposta cinematografica di questo weekend, Breakdance. Tutta così adesso, no, davvero, base molto tecno, molto giovane, come si suol dire, per questo film che si intitola Breakdance ed è il classico teen movies, la storia di una ragazza, potrebbe essere una delle nostre ragazze appunto teenager, che sogna di fare successo con il suo col suo saper ballare la breakdance, con la sua musica, con i suoi video nel campo dei social, nel campo di YouTube, in un'epoca nella quale questi film hanno queste musiche, queste canzoni hanno spesso successo perché rimbalzano da video a video, da tweet a tweet, e diventano importanti. Questo è quello che almeno a un certo punto gli fa capire un manager che questa giovane protagonista incontra. Ciao, sono Queen, Queen Daniels. Cosa posso fare per voi? Sì, senti, ti ho cercata dappertutto, ho scoperto su Google dove lavoravi e ora siamo... Scusa, sei uno stalker per caso? Che? No, no, sei pazza, sono un talent scout. Ho visto il tuo video su YouTube, stupendo. Che tipo di manager sei? Lavoravo a VidSpace, il network che lancia nuovi talenti in rete, 3 miliardi di visualizzazioni sì, al mese. Sì, lo conosco bene. Sì, poi me ne sono andato per mettermi in proprio. Lavoro con un investitore molto grosso. Gli ho parlato di te e della tua crew. E lui è seriamente incuriosito. E allora questo l'incontro appunto con il possibile manager che potrebbe far esplodere sul web e su YouTube questo progetto, chiaro che diventare da una normale adolescente con dei sogni a una professionista che potrebbe così staccare l'ombra da terra, per dirla con un famoso scrittore, chiaramente è un salto molto importante, soprattutto sotto il profilo dei rapporti privati. Guarda che non mi voglio scusare perché inseguo il mio sogno. Mi spieghi che senso ha inseguire un sogno se poi non è la vera te che se lo vive? Non hai ancora capito, vero? No, cosa? Secondo te, sono quelli i tuoi amici? Pensi che i tuoi fan, i tuoi follower ti amino davvero? Quelli neanche ti conoscono. Cioè, siamo noi basta. Quelli che ti conoscono, i tuoi amici, e sono io quello che ti ama. Io non ho mai voluto niente da te, niente, Casey. E pensi di poter venire qui e dirmi che mi ami? E poi cosa? Ci baciamo mentre la videocamera gira intorno a noi con effetto slow motion? Questo non è uno dei nostri video, questa è la mia vita, è reale, è la vita vera. Beh, c'è di buono che questa protagonista almeno sa riconoscere qual è la vita reale, qual è invece il sogno da inseguire. Boris, un film che ovviamente senza sconvolgere niente né della storia del cinema, neanche della storia recente, però inquadra un fenomeno teen movies e soprattutto riesce, a mio modo di vedere, ad avere una protagonista accettabile sotto quel profilo. Non c'è il desiderio di trasgressione, ma forse il racconto vero è quello della realizzazione di se stessi. No, assolutamente d'accordo. Il punto forse è proprio questo, che è un film onestissimo fin dalla costruzione della sua crew, volendo insomma raccontarla con il vocabolario di questo film, perché sia il regista sia gran parte della troupe vengono da esperimenti molto simili, uno degli Step Up, vari film musical danzerecci, e questo è fondamentale perché in qualche modo soprattutto questo regista ha visto il genere Saranno Famosi crescere insieme alla società e non l'ha ignorata la società, tant'è vero che adesso arriva dall'idea che si erano fatti appunto di crew di strada che dovevano cercare l'arrivo in televisione addirittura al livello del 2.0 o del 3.0, quindi di un successo social che è più importante del successo vero, non conta più avere sulle strade 1000 persone, 2000 persone che ti seguono perché sei bravo, conta molto di più avere 3 miliardi di visualizzazioni come abbiamo sentito prima nel trailer. E ne esce fuori un film molto interessante, soprattutto forse nelle considerazioni sociali e anche proprio industriali a livello di società dello spettacolo che porta avanti. Nel senso, la riflessione che abbiamo sentito, anche piuttosto semplice, piuttosto semplicistica, dei due innamorati sul fatto che i follower non sono veri amici, è una riflessione, se vogliamo, vecchia in una società drogata dai social. Si vuole tornare alla verità, anche perché appunto c'è anche una riflessione sul successo, chi investe su questa crew in verità vuole solo lei, vuole solo la front girl e non vuole i suoi amici di una vita, quindi c'è anche l'aspetto forse classico di questi film, cioè il fatto che non bisogna tradire se stessi, bisogna andare avanti sempre con gli stessi amici di sempre, quelli che c'erano quando le cose andavano male. Tutte queste cose messe insieme, oltre al fatto che anche dichiaratamente il produttore e l'ideatore John Legend e fa parecchio product placement, no? dai Twins, che sono un gruppo molto importante della breakdance, a YouTube, che insomma dovrà ringraziare Vita Natural Durante probabilmente per lo spot che ha avuto in questo film, la riflessione si fa reale, molto realista, molto realistica, molto verosimile, e questo lo rende molto interessante. Quindi non è un film straordinario, la sceneggiatura anzi va detto è molto sotto la sufficienza e questo è forse quello che lo rende poco appetibile, ma a livello visivo, a livello di numeri musicali e di danza che sono molto ben ripresi e a livello di riflessione proprio antropologica, è un film che comunque ha il suo interesse, quindi è forse anche qualcosa in più che per gli appassionati del film da Saranno Famosi e Dirty Dancing in poi, insomma. Certo, allora Breaking Dance quindi a suo modo promosso in questo weekend senza grandi picchi cinematografici. Adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade, poi fra poco torniamo con una commedia a suo modo generazionale ma sicuramente di segno cinematografico molto diverso che si intitola L'asso nella mano. La rosa purpurea. Ed eccoci ancora qua, la rosa purpurea, con la seconda parte del nostro programma, un altro teen movie, potremmo dire, anche qui ci sono dei fili che si intrecciano in questo weekend cinematografico di agosto, perché L'asso nella manica è un altro film che racconta una generazione, quella del liceo per intenderci, nella quale si svolge la vita di Bianca, che è una vita tranquilla, non particolarmente depressa, espressa, ma questo succede fino a quando lei non scopre di essere appunto l'asso nella manica. Ora, nell'acronimo del titolo, asso significa amica sfigata strategicamente oscena, ovvero la bruttina che, come dire, si accompagna, con cui si accompagnano soprattutto le ragazze più carine del liceo per sembrare ancora più attraenti. Quando Bianca scopre questo fatto di essere lei l'asso nella manica, le cose cambiano di molto. Parliamo di etichette. Qui al liceo ne ho messe tante. Figo, strana, rocker, stronzetta. Ma quello che non sapevo è che ne avevo una tutta mia. Dove stanno le ragazze? Non posso darti informazioni sulle mie migliori amiche. Invece sì, dato che sei il loro asso. Che sono io? Sei il loro asso, amica sfigata, strategicamente oscena. Che hai detto? Ripeti un po'. Sai, ogni gruppo di amiche ha il suo asso. La cessa amica da portarsi in giro per sembrare più fighe. Una strategia semplice ma efficace. È una carta buona. E il film, titolo originale The Duff, racconta proprio questo, la rivincita, il riscatto di questa ragazza che, scoperta di essere asso, decide di non volerlo essere, anzi di voler uscire allo scoperto anche per quello che riguarda le sue velleità amorose, grazie a un amico di infanzia che nel frattempo è diventato il più bello del liceo e che la potrà aiutare. Allora Boris, facendo un paragone, un parallelo con Breaking Dance di cui parlavamo prima, se lì si è scelta la chiave drammatica, morale, potremmo dire, di una adolescenza da vivere nel vero quando i social sono quelli che ti portano fuori dal vero, qui invece si pigia sul pedale della commedia pura, ma anche qui con mi pare soprattutto da parte dello sceneggiatore la capacità di saper cogliere un aspetto del teen movie che non lo faccia diventare l'ennesimo capitolo di un film sul povero sfigato ranocchio che diventa principe o principessa, ma qualcosa di più e soprattutto qualcosa di più attuale. Guarda, puntando sulla sceneggiatura hai colto esattamente nel segno, perché Kagan, che è lo sceneggiatore, è lo stesso di Banslam, forse lo ricorderanno in pochi, ma era un teen movie tutto fondato sui gruppi musicali liceali americani, che era veramente efficace, molto bello, uno dei migliori teen movie degli ultimi anni, e riprende esattamente quel tipo di struttura. Noi dobbiamo pensare ai teen movie come il genere forse più granitico del cinema attuale. È stato codificato più o meno all'altezza degli anni Ottanta e non ha mai perso i suoi principi fondatori. C'è l'amica molto bella, in questo caso addirittura due, c'è quella più sfortunata che di solito è il centro della narrazione, e poi ci sono tutti quanti i livelli sociali all'interno del liceo che spesso vengono anche dichiarati per creare un effetto comico, e chiunque di noi abbia fatto il liceo sa che effettivamente quel genere risponde a verità, nel senso che andare a scuola vuol dire entrare in una sorta di scala sociale che devi cercare di scalare. L'asso nella manica secondo me è un film decisamente efficace, dicevamo di un teen movie, ma riesce a unire due generi molto efficaci, appunto quello del teen movie scolastico, che è sostanzialmente la rivisitazione del genere carcerario, volendo fare una battuta ma neanche troppo per ridere, insieme al genere, se vogliamo individuarlo, My Four Lady, cioè il genere in cui un uomo molto inserito decide di educare una donna a stare nel suo contesto sociale e finisce probabilmente per avvicinarsi un po' troppo alla sua allieva. Con una sceneggiatura veramente di ferro questi due generi si incontrano e creano un film molto efficace, e anche qui c'è il pregio di raccontare qualcosa di estremamente attuale, perché se negli anni 80 e negli anni 90 il nerd tra virgolette o la nerd che venivano raccontati erano effettivamente degli emarginati, faceva parte di gruppi di outsider, qui ci ritroviamo di fronte invece a una ragazza che pur non essendo bella come le sue amiche è molto piacente, è molto brillante, e l'unico motivo per cui è in fondo alla classe sociale è che spesso e volentieri nei licei americani o italiani che siano, chi ha successo è il più bello, è quello che vorrebbe finire in televisione, è il più superficiale, è quello che viene giudicato in base a parametri che poi non saranno quelli della vita reale, mentre quello che sta in fondo è quello che probabilmente avrà successo nella vita. May Whitman è molto azzeccata come protagonista, la sceneggiatura aiuta perché non ha mai abbassamenti di ritmo e devo dire anche il protagonista maschile, che apparentemente è semplicemente il più bello della scuola, ha una capacità di attraversare i vari registri di questi due generi con grande abilità. Cosa succede? Che questo film da teen movie puro e semplice diventa qualcosa di più strutturato, diventa qualcosa in cui noi vediamo in controluce quello che siamo diventati in questo terzo millennio e vediamo una nuova generazione che forse è meno stupida e meno superficiale anche delle nostre, cioè si trova a dover combattere delle battaglie forse meno importanti ma più complesse. Alla fine l'asso nella manica, al di là del fatto che DAF fa molto più ridere come acronimo, anche perché richiama la birra dei Simpson, richiama anche la fisicità di Homer, mentre asso è una forzatura che serviva per il doppiaggio in italiano. Tra l'altro la protagonista è una nota doppiatrice in America, e anche questo è un interessante cortocircuito. Ti ritrovi a seguire il teen movie con la stessa passione con cui lo ritrovi sempre, perché poi siamo chiari, la forza di questi teen movie, che siano melodrammatici come Noi siamo infinito, che è un piccolo capolavoro, che siano commedie molto agili come questo L'asso nella manica, ti diverte e ti porta ad immedesimarti, perché è inevitabile, ti ricorda un punto della tua vita che è stato molto difficile, anche magari molto divertente, ma pieno di frustrazioni e di umiliazioni, e poi grazie a Dio, essendo una favola, essendo una fiaba, ti porta laddove il tuo cuore può sorridere e non abbattersi. E quindi devo dire, è quasi il mio film della settimana, forse perché come film della settimana ce n'ho uno che per affetto e per costanza è ancora più nel mio cuore, ma veramente è tutto fatto molto bene. Tra l'altro anche la regia è molto buona, la regia è molto interessante, perché è di questo Ari Sander, che nel 2006 vince l'Oscar per il miglior cortometraggio e che riesce ad arrivare all'esordio con tempi italiani, cioè dopo soli 9 anni, e riesce a farlo con un film che forse non è nelle sue corde, ma che riesce a portare a casa con molta molta abilità, con molta bravura, e alla fine non entrerà nella storia del cinema L'asso nella manica, ma nella storia del suo genere secondo me sì. Allora, L'asso nella manica, secondo teen movie della settimana. Certo che chiaramente è vero che i ragazzi tornano dalle ferie e magari vanno voglia di andare al cinema. Due prodotti che si rivolgono allo stesso target in un weekend come questo magari sono un po' un azzardo. I primi risultati li danno intorno al quinto o sesto posto in classifica dominata da quel film che io ho capito di cui Boris parlerà fra poco. Prima però dobbiamo parlare di un altro prodotto che arriva in sala in questo fine settimana, che si intitola The Gallows, l'esecuzione, e che chiaramente ci riporta ad atmosfere decisamente più horror. Dell'esecuzione. Che succede? Non c'è nessun nastro. Qualcuno è morto nella scuola. Charlie. Lui è qui. Tutte le porte sono chiuse. Dobbiamo uscire da qui. Ehi, Charlie! Non dire il suo nome! Non dire il suo nome! Charlie, Charlie, Charlie! E allora, anche qui gli ingredienti di alcune sottospecie dell'horror, sottocategorie dell'horror ci sono. C'è la questione di non ripetere il nome del mostro cattivo, che è già animato molto cinema dell'orrore. C'è quella del luogo un po' stregato. In una recita scolastica si era verificato un incidente mortale. 20 anni dopo gli adolescenti di questa scuola decidono di rimettere in scena lo stesso spettacolo. Chiaramente il tentativo è quello di ricordare chi ha lasciato la vita in quell'incidente, ma le cose andranno diversamente. Questo è un po' giocare, no, tra la recita scolastica. Anche qui siamo nell'high school, anche qui siamo nella scuola superiore, non siamo nel teen movie sicuramente. Boris, con quali risultati? Ma in questo caso purtroppo il andare a ripescare in un genere sfruttato, se non abusato, non ha la stessa efficacia dei due film precedenti. Qui siamo nell'horror fan footage, quello che è nato con The Blair Witch Project e che poi si è rivitalizzato con Paranormal Activity. Che cos'è? È sfruttare il fatto che si ha un basso budget per far credere che si è trovato un filmato reale di qualcosa successo veramente. Questo ti consente di avere una struttura visiva molto agile, presa da una videocamera, e ti consente, insomma, di non dover spendere chissà quanti soldi in effetti speciali e via dicendo. Il racconto è abbastanza semplice, l'esecuzione, che è nel sottotitolo italiano, è una pièce teatrale che si deve riportare in scena dopo 20 anni da un tentativo che finì nel dramma, perché uno degli attori morì impiccandosi per sbaglio durante la recita. C'è la volontà di ricordare quest'uomo, cioè tutto quindi è portato avanti con il criterio di voler celebrare un anniversario drammatico. Vengono coinvolti vari elementi, anche qui ci sono qualche elemento del team movie, c'è, perché sono vari elementi tipici della scuola, il campione sportivo che però ha una cotta per l'intellettuale della scuola, molto carina, tutti hanno gli stessi nomi che hanno nella realtà, e portano avanti questo tentativo. E ovviamente questo tentativo non bisognerebbe mai rifare, anche solo per scaramanzia, rifare qualcosa che è già andato male, lo insegna Terry Gilliam nella storia del cinema, ma lo insegnano anche tutti gli horror di questo tipo, non bisognerebbe mai farlo. Loro lo fanno, le cose finiscono come possiamo immaginare. Qual è il problema di De Gallos? Il problema grosso di De Gallos è che cerca di prendere tutti gli stilemi di un genere e di un sottogenere, ma li tratta malissimo. Innanzitutto con quello che c'era invece negli altri film, cioè una sceneggiatura che è davvero molto scarsa, una sceneggiatura che non riesce neanche a replicare ciò che vorrebbe imitare, non si ha quasi mai paura. Neanche nel momento in cui si ricordano i drammi precedenti, non si riesce nemmeno ad utilizzare l'elemento più basilare, che è quello dei suoni, che è quello della suspense, non si riesce mai ad avere realmente paura, e anche gli interpreti, che normalmente negli horror non sono nomi illustri e neanche talenti straordinari, riescono però ad essere all'altezza di una storia che tra l'altro è semplice ed è resa ancora più semplice, ancora più banale da una sceneggiatura molto, molto basilare. E quindi di fatto, anche se gli elementi del soggetto potevano essere interessanti, potevano portare a qualcosa non di straordinario, non di cult, ma almeno di sufficiente, arrivano invece a un risultato estremamente mediocre. E in un'estate in cui a noi è arrivato un cult, un film straordinario come Babadook, fa ancora più male vedere un horror invece così, così scarso. E in questo caso, mentre col Timuri abbiamo scoperto che forse c'è un genere molto codificato, molto vecchio, che può essere rivitalizzato, con questo film possiamo riflettere sul fatto che forse l'horror fan footage, in un periodo in cui siamo drogati da immagini reali o finto reali, non ha più la stessa efficacia sull'alimentare le nostre paure, e che quindi forse dovrebbe essere abbandonato almeno per un po' per poi essere rivitalizzato. Certo. Quindi devo dire, probabilmente la bocciatura di questa settimana è proprio De Gallos. E allora a questo punto noi diamo la regia, fra un po' torniamo insieme perché ci aspetta Mission Impossible Rogue Nation. Restate con noi. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea, terza parte, l'ultimo film dei quattro che escono questa settimana, sicuramente quello che ha le maggiori possibilità, anzi è partito subito fortissimo al botteghino anche in Italia, dopo aver incassato quasi 140 milioni di dollari negli Stati Uniti. Stiamo parlando di Mission Impossible Rogue Nation, il quinto capitolo della saga di Mission Impossible, capitolo molto molto particolare anche nei toni che si sono scelti per raccontare questa nuova storia, che per protagonista Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, insomma cast altisonante. Sentiamo la clip. Ce la fai a guidare? Insomma, un minuto fa eri morto. Ma di che cosa parli? Qui va a finire male. Potrebbe essere la nostra ultima missione. Portiamola a termine. Devi superare 3,5 metri di cemento e 260.000 litri di acqua pressurizzata. Senza usare le bombole. Non è così impossibile. No, no, no. Ethan, mi ricevi? Ethan, abbandona! Abbandona! E le note finali ci riportano a quello che è stato Mission Impossible e a quello che potrebbe essere diventato con questo film che racconta l'eterno scontro interno ai servizi segreti, la CIA che vuole chiudere la divisione di Ethan Hunt, appunto di Tom Cruise, giudicata un po' fracassone, insomma, i cui risultati sono arrivati più per il caso che per la capacità, ma chiaramente c'è chi non s'arrende, appunto lo stesso Hunt, e si dedica a combattere il sindacato con la S maiuscola, che alla fine è una sorta di gruppo di dissidenti interni che si sono dati al terrorismo dei nostri giorni. Produce J.J. Abrams, scrive Christopher McQuarrie, Oscar per i soliti sospetti, che dirige il film. Le particolarità di questo Mission Impossible sono di spingere Boris talmente tanto sul pedale della commedia, quasi da diventare un film parodistico in se stesso. Cioè, quando uno vede il trailer dice: ma guarda, hanno fatto la parodia di Mission Impossible. E secondo me la cosa estremamente intelligente è di mettere questi elementi parodistici all'interno della stessa saga, cioè di non farsi prendere in giro da qualcun altro, ma di spingere i propri personaggi talmente al limite da farsi spingere, da farsi prendere in giro da se stessi, che è sempre la migliore forma di autoironia. Assolutamente d'accordo. La cosa più efficace, più riuscita, è proprio questa unione tra la parodia, l'autoironia e comunque la forza, la potenza che Mission Impossible ha in sé, nell'essere di fatto l'unico film di supereroi in cui non ci sono superpoteri, perché è questa la forza di Tom Cruise. Quando tu leggi su un sito specializzato che lui ha fatto una scena sull'ala di un aereo in decollo e l'ha fatta senza stuntman, ti rendi conto che c'è anche un aspetto di neorealismo quasi in questo racconto che si fa ormai da 5 film, ed è una cosa potentissima, probabilmente perché è uno dei pochi film, insieme penso ad Iron Man e Robert Downey Jr., in cui la presenza dell'attore è così iconografica da invadere il film senza però cannibalizzarlo. Quello che dici tu si vede addirittura fin dall'inizio, c'è una sorta di teaser prima dei titoli, di cui potete vedere un'inquadratura, anzi un piccolo frammento di sequenza anche nel trailer, che ti fa subito capire quale sarà il tono del film. Cioè un tono estremamente autoironico e allo stesso tempo però senza perdere quella, come dire, scia narrativa della paranoia, della spy story, della capacità di costruire trame complesse in cui ovviamente Ethan Hunt è in mezzo e in cui progressivamente in questi anni, soprattutto dopo la svolta J.J. Abrams, che qui produce ed è McQuarrie che scrive e dirige, in cui Ethan Hunt non è più il salvatore del mondo ma è un outsider inviso sostanzialmente a tutti, che deve combattere quasi più contro la CIA che contro questo sindacato, che non è altro che un insieme di agenti che come lui sono stati fatti fuori. In quel nel senso del sindacato è che proprio sono considerati morti e ritornano più potenti di prima. Nel caso di Ethan Hunt è un cavaliere solitario che non riesce a stare all'interno delle regole, lo abbiamo visto in Mission Impossible 4, quello che ha fatto al Cremlino è qualcosa di sconcertante, e non riesce però nemmeno a smettere di combattere dalla parte giusta, che non è né quella di Baldwin, appunto, della CIA, né quella del sindacato dei cattivi. In questo senso c'è anche un po' di Capitan America, per questo dico che è molto condizionato dall'etica e dall'estetica supereroistica, pur non avendo Tom Cruise superpoteri. Il resto lo fanno questi attori che sembrano nati per fare questa saga, da Simon Pegg a Rebecca Ferguson, che forse delle Ant Girl, visto che c'è molto anche di Bond in Mission Impossible, è la più efficace. Forse le figure femminili all'interno della saga sono sempre stato il punto debole, in questo caso invece c'è molta forza. E poi c'è Tom Cruise, che è davvero straordinario. Tom Cruise, a fare Tom Cruise all'interno di Mission Impossible è il migliore. Può sembrare una banalità, ma non è facile essere all'altezza di quell'immagine. Per il resto la sceneggiatura è di ferro, gli effetti speciali e gli effetti anche visivi e la regia sono straordinari. Io vi invito a godere proprio della sequenza all'Opera di Vienna, che è un piccolo capolavoro del genere, e quindi non posso che consegnare la mia palma di film della settimana a Mission Impossible 5, perché avere una saga così vitale al quinto capitolo, con questo Rogue Nation che continua a tenerti attaccato alla poltrona, continua a farti sorridere, anzi ti fa sorridere di più, e allo stesso tempo però a crearti quelle farfalle nella pancia ogni volta che gli vedi fare qualcosa di pericoloso, e qua fa di tutto, insomma, sembra essere pericoloso pure quando fa un disegno a matita come se fosse Leonardo da Vinci. Ragazzi, ci può riuscire solo Tom Cruise, certo. ci voleva un supereroe, dai, l'abbiamo trovato Tom Cruise in questa settimana. E poi ripeto, l'intelligenza di un'operazione che dice: prima che facciano gli altri fra 5 anni la parodia di Mission Impossible, me la faccio da solo, e così ho bruciato il terreno agli avversari. Boris, grazie per averci raccontato dalle montagne della Slovenia i film di questa settimana. Ci sentiamo fra 7 giorni e saremo vicini vicini al Festival di Venezia. Ma infatti il mio essere sulla montagna voleva essere una citazione di Everest, film d'apertura di Venezia. Questo era una, come dire, una raffinatezza che volevo regalare solo a te, Franco. Comunque la prossima settimana è buon cinema. E allora, in attesa della Mostra del Cinema di Venezia, di cui parleremo abbondantemente la prossima settimana, noi invece continuiamo quello che è stato un po' il nostro fil rouge di questa estate, cioè le interviste ai protagonisti del cinema italiano della prossima stagione. Chiara Pizzimenti ha incontrato per noi Luca Argentero, reduce dal successo anche di critica di Noi e la Giulia della scorsa stagione, e già impegnato in un paio di film per il prossimo anno: Poli Opposti con Sara Felberbaum, che esce in ottobre, e soprattutto Vacanze di Natale ai Caraibi, il ritorno del cinema panettone il 16 dicembre. E allora, Luca Argentero al microfono di Chiara Pizzimenti. Un uomo da commedia? Ti senti così? No, mi sento molto a mio agio a farla e mi diverto molto a farla, e sono felicissimo che continuino a propormela nell'80% dei casi, quindi... Nel senso che l'80% di quello che faccio è commedia e ne sono molto felice. Anche l'anno prossimo, la prossima stagione, è commedia in modi diversi. Poli Opposti è una commedia romantica? Super romantica, è veramente chiara nei suoi intenti. Vogliamo far sospirare i cuori. E da quello che ho visto, secondo me, è un altro obiettivo centrato. È la stessa cosa di Noi e la Giulia: quando uno ha le intenzioni molto chiare, ha un progetto preciso, lo porta avanti con convinzione, secondo me le persone lo recepiscono per quello che è. Sono sicuro che Poli Opposti sarà un bellissimo modo di sospirare d'amore. Ti posso chiedere un po' di anticipazione: com'è la storia di Poli Opposti? È un esordio alla regia? Sì, è un'altra opera prima di cui sono molto orgoglioso, in generale del partecipare a opere prime. Max Croci sono sicuro che beneficerà molto di questo suo primo film, perché è stato bravissimo. È una storia d'amore, sembra strano dire classica, perché i riferimenti di Max sono alla commedia anni 50, Howard Hawks, Cary Grant, Audrey Hepburn, quella cosa lì, insomma, quindi elegante, sofisticata, ed è la storia di un... Io sono un terapista di coppia, Sara Felberbaum è un avvocato divorzista tremendo, e diciamo ci incontriamo, abbiamo lo studio sullo stesso pianerottolo, quindi da lei le coppie entrano per divorziare, da me entrano per cercare di stare insieme, e ovviamente l'amore è destinato a scoppiare tra i due più improbabili. È bello così. L'altra commedia di quest'anno è molto diversa, è un cinepanettone? Sì, ormai sì, le definizioni sono strane. Io ho l'orgoglio di annunciare il mio debutto in un film puramente comico, che è un genere. e mi diverte molto l'idea, soprattutto perché la proposta lusinghiera arriva da chi ha reso questo genere, dai re di questa categoria, no? La regia sarà di Neri Parenti, lavorerò con Christian De Sica, con Massimo Ghini, la mia partner sarà Ilaria Spada. Mi piace l'idea di mettere un'altra bandierina in un percorso come il mio, che non ha mai smesso di... Io non ho mai smesso di prendermi troppo sul serio, e spero di continuare a fare così. E quindi mi diverte proprio... Credo che sarà più difficile di tanti altri progetti che ho, su cui ho lavorato. La farsa non è semplice, non è scontata. Magari sembra banale, ma non è. Si va ai Caraibi, dunque. Oltretutto. Adesso, che non mi sembra un piccolo valore aggiunto. Insomma, lavorare così, chiamano lavoro. Si fanno due passi verso... Dai, com'è? Verso i Caraibi. E il futuro ancora più avanti che cosa dice? Ci sono... Per scaramanzia uno non lo dice mai, perché si dice, da noi si dice che finché uno non firma il film fa sempre in tempo a farlo qualcun altro, quindi meglio non dirlo. Però sì, ci sono dei progetti a cui tengo moltissimo e spero che partano davvero. C'è anche l'ipotesi di un tornare a lavorare in produzioni internazionali? Ti piacerebbe? Hai dei progetti, delle idee? C'è differenza? Come è stato lavorare per... produzioni internazionali rispetto alle italiane? Intanto c'è questo piccolo misunderstanding, per usare una parola internazionale, sul quanto gli attori possano scegliere. In realtà vieni scelto, quindi è difficile scegliere, soprattutto se si parla di produzioni internazionali. Per me è stata un'esperienza bellissima, ero di fronte a Julia Roberts, quindi insomma, tanta roba, come si dice da queste parti. Non lo so, spero sempre che capiti qualcosa di eccezionale, perché almeno io l'ho proprio vissuta come un regalo, come un'avventura. Non ci sono differenze tecniche, il set gira nello stesso modo in cui gira un set italiano, c'è solo il doppio del tempo per fare le cose, il doppio delle persone che lo fanno, il doppio dei danari per poter fare bene le cose, quindi spesso vengono meglio delle nostre, ma non perché siamo meno bravi. In realtà poi, come vedi, moltissimi dei nostri tecnici vincono premi in tutto il mondo, sono candidati agli Oscar. Noi siamo bravissimi a fare quello che facciamo, abbiamo un po' meno industria, però non abbiamo niente da invidiare. Tornando all'inizio, 80% commedia, se si dovesse abbassare questa soglia, che cosa ti piacerebbe? Dramma, qualcosa di diverso? In Italia non è che si frequentano così tanti generi. La commedia mi viene proposta l'80% perché è l'80% di quello che viene prodotto. Quando poi uno ha la fortuna, come mi è capitato in passati anche recenti, di essere scelto dai grandi autori, è una gioia, una felicità. Nel caso di un attore come me, che non ha una formazione vera, accademica, è un modo per confrontarsi, per imparare, per ricevere quei consigli che uno poi si porta dietro tutta la vita. E quindi sì, spero che mi... Guarda, io mi sento fortunato proprio perché ho sempre saltato da una cosa all'altra senza soluzione di continuità, mi sono successe cose incredibilmente diverse tra di loro, e quindi mi sento fortunato. Quando mi chiedono cosa ti auguri, dico che vada esattamente come è andato fino adesso. Di imparare ancora un po'. Sì, a parte che quello è come i dottori, qui non si smette mai, so che ogni esperienza, ogni personaggio, ogni storia, ogni regista sono esperienze nuove, quindi... Luca Argentero al microfono di Chiara Pizzimenti alla Rosa Purpura per raccontarci i suoi progetti della prossima stagione e per raccontarsi un po' anche come personaggio, cosa che faremo fra poco dopo la viabilità con un gigante della storia del cinema francese ed europeo. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, le interviste sulla prossima stagione, ma anche le interviste sulle grandi carriere cinematografiche. Ancora brava la nostra Chiara Pizzimenti, che ha avvicinato Bertrand Tavernier, uno dei più grandi nomi del cinema francese, del dopoguerra, del cinema europeo, a tutto tondo, classe 1941, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, figlio di uno scrittore, René Tavernier, era partito per fare fare tutt'altro, ma poi al liceo ha conosciuto il regista Volker Schlondorf, con cui condivideva appunto l'interesse per il cinema, e da lì è partita prima appunto un interesse e poi una carriera anche da critico cinematografico, da fondatore di Cine Club, che hanno contribuito a far conoscere in Francia registi americani come John Ford, come John Huston, e poi l'esordio alla regia e film importanti firmati da Bertrand Tavernier negli anni, dall'Orologiaio di Saint-Paul nel 74, che forse gli diede la notorietà internazionale, Che la festa cominci, La morte in diretta del 1980, straordinario e preveggente, e poi ancora andando avanti Una domenica in campagna, fino all'affermazione nell'86 di Round Midnight a mezzanotte circa, un film che è un vero e proprio omaggio al genere jazz, e quindi La vita e nient'altro, Daddy Nostalgie, insomma sono tanti film della filmografia di questo straordinario regista che ci racconta e si racconta appunto al microfono di Chiara Pizzimenti. È stato un colpo di fulmine quello fra lei e il cinema. Sì, dall'età di 13 anni. E continua. Sempre. Il primo interesse è stato la scrittura oppure voleva già essere regista? La prima cosa è stata la regia. Volevo fare il regista. Ovviamente non sapevo cosa significasse a 14 o 15 anni, ma volevo fare dei film. Volevo scrivere con le immagini. Non ero stupido, sapevo che all'inizio serviva una sceneggiatura. Ne ho scritte quando avevo 18 anni, che erano veramente naïf, storie di poco peso. Avevo la certezza di voler girare dei film. Ha fatto anche il produttore. È più semplice poter produrre i propri film? J'ai fait de la production après devenu metteur en scène parce que ho fatto da produttore dopo essere diventato regista, perché mi ero reso conto in molti film che avevo fatto di aver già fatto, senza rendermene conto, il lavoro del produttore. Avevo scelto soggetto, sceneggiatori, discusso i contratti, cercavo gli attori, avevo trovato il canale di distribuzione per il film e anche il circuito di sale per farlo uscire. Avevo dunque già fatto tutto il lavoro da produttore. E in un dato momento mi sono detto, perché non posso essere coproduttore dei miei film? Non per averne un guadagno economico, ma per poter avere un controllo sulle pellicole. A partire da Des Enfants Gâtés, ho coprodotto tutti i film che ho fatto. Ero sempre la persona che trovava il soggetto, tranne nel caso di Eloise, la figlia di D'Artagnan, e La Princesse de Montpensier, che mi è stato proposto da un produttore. In tutti gli altri casi ho scelto io, che fosse un soggetto letterario, che fosse una sceneggiatura originale, come Che la festa cominci, Il giudice e l'assassino, L27, Ricomincia da oggi e La piccola Lola. Tutte sceneggiature originali. Ha esplorato nel suo lavoro molti generi. Qual è la spinta, la curiosità è il motore di questa ricerca? Ho sempre fatto film per imparare. Mi piace immergermi nella ricerca e quando trovo un personaggio che mi interessa ho voglia di conoscere il contesto e l'epoca in cui vive. È questo che mi ispira le scene. Dopo che ho lavorato in un determinato contesto, non ho poi voglia di ritornarci subito. Ho voglia di andare a esplorare qualcosa di diverso, di cambiare epoca e scenario. Mi interessa soprattutto il non ripetermi, non avere l'impressione di fare due volte la stessa cosa. È difficile lavorare in Europa? Quali sono pro e contro? È stato a volte difficile, a volte è molto semplice per me. Ho dovuto battermi faticosamente per arrivare a imporre alcuni soggetti e alcuni film. Ci sono casi in cui ho fatto tutto da solo, mettendo i miei soldi nella produzione. È stato però lo stesso quando ho fatto film negli Stati Uniti. Round Midnight, a mezzanotte circa, è un film che è stato rifiutato da tutti gli studios. Nessuno ne voleva sapere. È la persona allora responsabile della divisione video alla Warner che ha creduto nel film e che ha permesso che ci fosse un budget per farlo. Vedi, Francis, le swing band di una volta usavano tutte accordi semplici. Accordi di settima. E poi c'era la band di Conti Basie. Ho sentito Lester Young e sembrava che suonasse come un marziano. Perché usava intervalli che non usava nessuno. le seste, le nonne e... Sai, proprio come Debussy e Ravel. E poi arrivò Charlie Parker e cominciò a sfruttare gli accordi più alti, arrivando all'undicesima, alla tredicesima, alle quinte diminuite. Per fortuna io stavo già cercando le stesse cose. Sai, non è che un bel giorno ti svegli e stacchi uno stile nuovo dall'albero. L'albero ce l'hai dentro e cresce coi suoi ritmi naturali. L'occhio del ciclone in The Electric Mist è un altro caso. Nessuno negli Stati Uniti era interessato al film, che è stato finanziato per tre quarti da una società francese. Finanziato per tre quarti da una società francese. Donc, non, je pense que la scelta che ho fatto dei soggetti, il modo in cui ho approcciato i film, non è sempre stata popolare nei confronti dei finanziatori, ma alla fine arrivo a fare dei film e molti sono stati dei successi, anche quando mi era stato predetto il contrario. È un mestiere difficile ed esigente, si passano i due terzi del tempo a combattere, ma io credo che sia più facile per alcuni autori lavorare in Europa piuttosto che negli Stati Uniti. Accade a molti cineasti europei di andare negli Stati Uniti e vedere il proprio montaggio cambiato e avere i peggiori problemi con i produttori americani. Rivede i film che ha fatto? No. No, sono obbligato a farlo quando si deve fare il Blu-ray e quindi lo rivedo, ma lascio passare molto tempo. Mi diverte talvolta vedere un film 6 o 7 anni dopo. Ho avuto delle belle sorprese rivedendoli in seguito. Quando ho rivisto La vita e niente altro, un anno e mezzo fa, ne sono rimasto soddisfatto. Mi è capitato di rivedere il film da solo, ma anche di farlo in una sala piena. Nella Bletterie, una grande fattoria tra noi e Surville, hanno avuto 2 morti. Un funzionario e il figlio più grande. Basterebbe rettificare il territorio dei comuni. Spostando la fattoria dalla nostra parte farebbe 2 morti per noi. Loro ne hanno più di 30. Il torto non sarebbe grande. Più di 30. La morte in diretta con Romy Schneider e Harvey Keitel è del 1980, ma in fin dei conti racconta oggi. È il film che ho rivisto più spesso di recente. Ne abbiamo fatto una copia per un'uscita ottima in Blu-ray della versione inglese, quella originale che io riconosco. Era un film premonitore, non il solo. Penso di aver fatto molti film che sono più attuali adesso che all'epoca in cui sono usciti. Il giudice e l'assassino, L627 o Comincia oggi sulla scuola. Penso che lo siano tutti, ma in particolare La morte in diretta è un film che parla di oggi, della dittatura dell'immagine, del modo in cui si sfrutta l'immagine oggi. Però ce la faccio a volte a farmi una dormitina senza chiudere gli occhi, per questo non ci sono problemi. Le pillole le fanno effetto? Si stanca? No. Confesso che non mi piace molto dormire, se succede qualcosa non voglio che mi sorprenda. Bene, a quando il prossimo controllo? Non ne ha più bisogno. Sono pronto allora. Signor Ferro? Signor Ferro, perché si è lasciato usare così? Usare così? Ah, per non dimenticare quanto lei è carina. Ha definito in passato il suo rapporto con Philippe Noiret come quello fra Fellini e Mastroianni. C'era una grande amicizia. Stavamo bene insieme, ci divertivamo pur lavorando molto. Philippe aveva la grande capacità ed educazione di far sembrare sempre facile il lavoro. Era un essere umano straordinario. L'ho visto anche girare film in Italia. Ho visto il rapporto meraviglioso che aveva con Monicelli. Era una delizia vederli insieme. Ho passato 3 giorni straordinari a Firenze quando mi hanno invitato sul set di Amici miei. Continua ancora la sua attività di studioso del cinema americano? Stiamo per pubblicare un'edizione più completa del libro e quindi studio ancora il cinema americano. In questo momento sono però anche nel cinema francese perché ho finito un documentario su questo argomento. Mi occupo del cinema francese dagli anni 30 agli anni 70. Si ferma nel momento in cui io sono diventato regista. Parla dei registi che ho conosciuto, delle persone che ho incontrato nel cinema. È un approccio molto personale, per niente cronologico o scolastico. Sono i registi che ho conosciuto anche attraverso le persone che hanno lavorato con loro e con me, attori, sceneggiatori, tecnici, tutte persone che mi hanno in qualche modo colpito. E siamo arrivati così alla fine della nostra puntata della Rosa Purpura di questa settimana. Bertrand Tavernier al microfono di Chiara Pizzimenti, la nostra chicca di questa puntata che prelude alla prossima settimana, come sempre il sabato alle 18, per raccontare il molto cinema che tornerà in sala, ma soprattutto il molto cinema che si potrà vedere alla Mostra del Cinema di Venezia. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.